so che questo mondo cade a pezzi, so che siamo soli nel deserto con i nostri complessi, so che viviamo di cambiamenti e restiamo tristi con i nostri sentimenti contrastanti, e so che siamo diversi e una vita non basta cambiarci, siamo pagliacci che ridono falsi con le lacrime agli occhi, qui la fortuna è cieca, speriamo solo che ci tocchi, e so che la musica ci salva, che il tempo passa e sono anni già dall'ultima tempesta, e so che la gente si fotte la testa, però se mi accontento di ciò che ho, di acqua non è passata poi tante, che cazzo, la mia vita non cambia, sarò sempre un dipendente che scappa con la ganja, con l'incubo del conto in panca, e so che se il mondo è una puttana allora Dio nel magnaccia, e so che ho sempre questa faccia, forse un po' più sfatta, ogni mattina una disfatta col primo raggio di sole che mi abbaglia, ed ho un tuo bacio come sveglia, una vita tranquilla, e so che in fondo è questo che mi salva, e so che ogni giorno è una battaglia, cico di un guerriero che non lotta per soldi o per fama, ma per la sua famiglia, lo so. Sì, lo so che questo mondo non va. Sì, lo so, siamo stelle senza meta, razze bastarde senza scelte, lo so. Sogniamo cash ma viviamo di sconfitte, lo so. E lo so che questo mondo non va. Sì, lo so, siamo stelle senza meta, razze bastarde senza scelte, lo so. Sogniamo cash ma viviamo di sconfitte, lo so. E lo so. E io so che ho ancora tanto da prendere, tante storie da diffondere, che cazzo tanto fai schifo a prescindere, non mi so arrendere. Mi dite quanto siete bravi, beh mi fate solo ridere, vado a votare ogni volta ma voi non mi sapete comprendere, non mi so arrendere, penso spesso di smettere ma senza sogni, non ho più un'anima da vivere, sono frames da riprendere, voi me li rimontate in serie ma non mi riuscite ad offendere, se la vita è un muro bianco allora la mia tag la voglio incidere, massimo rispetto a chi ha avuto una vita del cazzo ma riesce ancora a sorridere col cuore in mano, la vita ti presta da vicino, parola di Germano, e so che sono solo un umano con un coraggio sovraumano, un eroe come Cava che lotta per il suo pane quotidiano, e so che se la vita porta sfiga abbiamo già un talismano, e i bresciani lo trasformano, lo fumano da ponte di legno a Cunzano, e so che si vive in azienda ma non abbiamo un piano, sono cose che sappiamo da un tot, siamo pugili che non cadono, sempre in piedi con gli occhi pesti come Rocky Marciano, so che questo mondo non va. Sì, lo so, siamo stelle senza meta, razze bastarde senza scelte, lo so. Sogniamo cash ma viviamo di sconfitte, lo so. E lo so che questo mondo non va. Sì, lo so, siamo stelle senza meta, razze bastarde senza scelte, lo so. Sogniamo cash ma viviamo di sconfitte, lo so. Sempre il solito impiegato, un lavoro nuovo, forse è meglio, ma è solo meglio pagato. Cos'è quello che hai sempre sognato? Un bambino, una donna o Villa Fenaroli arezzato? Odiavo il potere, così l'ho sterminato, ma le bombe erano vere come in un campo minato. E non è quello che hai sempre sperato, forse sbagliavo bersaglio, io ricomincio da capo.